Sì alle ronde di ex agenti contro la violenza, saranno controllate dai prefetti, dice il governo, e aggiunge: dal Quirinale non è venuto nessun veto. Odioso collegare stranieri e crimini, ammonisce intanto Fini. In Italia sono l'Emilia Romagna e Trieste i luoghi dove l'integrazione avviene meglio. Il mercato dell'auto a picco a dicembre, il fatturato ha perso il 30% e Bruxelles chiede chiarimenti al piano di aiuti italiano. Si profila un venerdì nero per le borse, pioggia di vendite sui titoli bancari. Si riapre l'indagine sull'omicidio di Anna Politkovskaja. Dopo l'assoluzione di tutti gli imputati ieri, il giudice oggi chiede altre verifiche. Israele verso il nuovo governo, poco fa l'incarico a Netanyahu. Gerex Alarge, buongiorno, benvenuti, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno, Nanna Migliorati. Stretta contro gli stupratori, prolungamento della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati clandestini, risorse per le forze dell'ordine. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento con le misure sulla sicurezza e contro le violenze. Ci sono, dicevamo, anche le discusse ronde, ma sentiamo allora nello specifico cosa è stato deciso. Andiamo a Palazzo Chigi da Andrea Viali. Sì, dunque, il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri anticipa di fatto l'entrata in vigore di misure che erano già previste dal pacchetto sicurezza e da altri provvedimenti che sono da tempo all'esame del Parlamento. Le anticipa, questo ha spiegato il Presidente del Consiglio Berlusconi, per dare una risposta immediata di fronte all'allarme sociale che è seguito nei giorni scorsi, in particolare ai casi di violenza sessuale. Ma a questo proposito, sulla necessità di questo decreto, sentiamo cosa ha detto Berlusconi. Queste norme sono state consegnate al Parlamento e i tempi che il Parlamento impiega per approvare queste norme sono qui che si dichiarano da soli. In particolare il decreto legge di oggi prende da quel disegno di legge che è già stato approvato da una Camera alcune norme e le fa diventare immediatamente vigenti e quindi immediatamente esecutive attraverso lo strumento del decreto legge, che è essenziale affinché un governo possa intervenire tempestivamente legiferando con norme che immediatamente siano applicabili e quindi possano conseguire dei risultati nelle situazioni che si manifestano e che richiedono provvedimenti tempestivi. Ecco, nel dettaglio, questo decreto prevede la pena dell'ergastolo per gli omicidi commessi dopo una violenza sessuale, la custodia cautelare in carcere obbligatoria per gli stupratori, l'arresto obbligatorio e processi per direttissima per gli stupratori colti in flagrante, si estende poi il gratuito patrocinio alle vittime delle violenze sessuali. In tema di contrasto all'immigrazione clandestina si portano invece da 2 a 6 mesi i tempi nei quali possono essere trattenuti gli stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione. Per quanto riguarda poi il controllo del territorio si stanziano nuove risorse pari a 100 milioni di euro per il Ministero dell'Interno, è prevista anche l'assunzione di 2.500 poliziotti entro il 31 marzo di quest'anno. Il decreto autorizza poi, questo era uno dei punti più controversi, la costituzione delle cosiddette ronde, dando di fatto la possibilità ai sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati che dovranno essere iscritti in un apposito elenco che sarà tenuto dalle prefetture. Spetterà al Ministro dell'Interno varare entro 60 giorni un decreto per stabilire gli ambiti di intervento delle ronde, ne dovrebbero far parte prevalentemente agenti di polizia e carabinieri in congedo. Ma sentiamo su questo aspetto del decreto cosa ha detto il responsabile del Viminale, Maroni. C'è questo fenomeno, dobbiamo regolarlo per incanalare questa disponibilità dei cittadini a partecipare al controllo del territorio in un modo gestito, controllato, utile. È per questo che prevediamo la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazione tra cittadini non armati per segnalare agli organi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale. L'ultimo punto del decreto è l'introduzione del cosiddetto reato di stalking. Saranno puniti con il carcere da 6 mesi a 4 anni gli autori di quelle minacce e molestie reiterate che potrebbero degenerare in reati più gravi come le violenze sessuali o addirittura gli omicidi. Per il momento da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea Viali. Sentivamo dal governo norme che riguardano l'immigrazione e su questo tema il monito oggi del Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha detto: dobbiamo mantenere la lucidità e la serenità per respingere l'odiosa associazione mentale tra criminalità e immigrazione che può diffondersi a macchia d'olio in diverse fasce della popolazione. Poi ha aggiunto Fini: questa cosa, se combinata alla crisi economica, può creare un mix di carattere esplosivo. Parole queste della terza carica dello Stato, dette in occasione della presentazione di un rapporto del CNEL proprio sull'integrazione degli immigrati. Rapporto, sesto rapporto CNEL su questo tema, curato dall'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di Integrazione degli Stranieri. E cosa dicono i dati? Dicono che la graduatoria assoluta vede per la prima volta l'Emilia-Romagna al primo posto come regione a più alto potenziale socio-occupazionale degli immigrati in Italia, e scavalca il Nord-Est, il Trentino e il Veneto. Ma sentiamo tutti gli elementi che emergono. L'integrazione è l'anima della politica migratoria e perché la politica possa adottare misure efficaci è necessario fornire dati accurati. Bisogna decifrare l'attrattività dei territori, ovvero cosa offre un'area agli occhi di un immigrato, l'inserimento sociale e quindi come si presenta il mercato immobiliare a chi arriva da lontano piuttosto che il sistema scolastico, l'inserimento occupazionale e quindi quanti immigrati lavorano in una determinata area e in quali condizioni. La graduatoria assoluta vede per la prima volta l'Emilia-Romagna al primo posto come regione al più alto potenziale socio-occupazionale degli immigrati, mentre tra le grandi aree il nord-ovest toglie lo scettro al nord-est. Quest'anno però è stata introdotta anche una graduatoria comparativa che mette a confronto le condizioni di vita degli italiani e degli stranieri per capire dove la vita scorre più o meno uguale per tutti. Ebbene, i risultati di quest'ultima quasi capovolgono quelli assoluti. La Sardegna è la regione a maggior potenziale integrativo. In generale le regioni più piccole e il mezzogiorno offrono condizioni migliori, anche se poi le aree che più attraggono gli immigrati sono quelle del nord del paese e il Lazio, perché considerate più ricche di opportunità di lavoro. Al di là dei dati, dal rapporto emergono due urgenze: la necessità della legge sul diritto di cittadinanza e quella sul diritto di voto amministrativo per gli immigrati. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. I numeri dell'economia, non ce ne vogliano gli ascoltatori se ancora una volta sono numeri negativi. Oggi parliamo del fatturato. L'Istat ha diffuso il dato su dicembre, diminuito del 3,8%, su base annua però il calo è stato del 10,3%, calo anche degli ordinativi del 2%, su base annua gli ordinativi che danno un sguardo anche sul futuro sono in ribasso del 15,4%, malissimo, se ancora servivano conferme vista la cassa integrazione, il settore auto a dicembre il fatturato è crollato del 29,6%. E con questi dati è dall'Europa che è arrivato un monito all'Italia, riguarda proprio il piano italiano di intervento sull'auto. Quali sono i dubbi di Bruxelles? Lo chiediamo allora ad Enrico Brivio, buongiorno. Buongiorno. Si è trattato di dubbi espressi da Jonathan Todd, che è il portavoce della commissaria europea alla concorrenza Nelly Kroes. Todd ha fatto presente che nel piano italiano dell'auto è prevista la firma di un protocollo da parte delle aziende che ne beneficiano e questo potrebbe comportare agli occhi di Bruxelles una componente selettiva, cioè che avvantaggia alcune aziende a svantaggio di altre. Pertanto la Commissione ha scritto una lettera oggi all'Italia chiedendo dei chiarimenti e delle delucidazioni soprattutto in questo presunto carattere selettivo che gli aiuti all'auto potrebbero avere. Comunque si spera di poter chiarire questo aspetto da Bruxelles. È tutto. Grazie Enrico Brivio, e ricordiamo naturalmente che piani di sostegno al settore dell'auto ci sono anche in altri paesi europei. Questa era la presa di posizione per ora del portavoce della Commissione europea sul piano italiano. E adesso andiamo alla giornata di borsa che, insomma, Deborah Rosciani... Devo proprio raccontarla? Aggiungiamo ancora. Chiediamo oggi... scusa ancora agli ascoltatori. Però la cronaca... cronaca, la cronaca è questa. Allora, giornata bruttissima per quello che riguarda l'Europa. Ne abbiamo viste di ben peggiori, per la verità, nei mesi scorsi, fra settembre e ottobre, ma questo 3% di ribasso che vediamo tra i listini del vecchio continente questa mattina, come al solito, ha le solite ragioni. Piovono le vendite sul comparto bancario, sul comparto automobilistico. Stamattina ci mettiamo dentro anche il settore minerario, perché il colosso del settore anglo-american nel Regno Unito ha annunciato il taglio di 19.000 posti di lavoro. Il gruppo sta perdendo quasi 15 punti percentuali in borsa, appunto, alla City. In Europa però le perdite sono determinate anche da altri fattori. Wall Street ieri è finita ai minimi da oltre 6 anni. Stamattina l'Asia, Tokyo, il Topix, l'indice giapponese allargato, è sprofondato ai minimi dal 1984, e tutto questo inevitabilmente oggi si sente anche in Europa. Parigi adesso perde il 2,87%, più pesante il quadro di Francoforte, meno 3,43%, Londra meno 2,56%, Milano a metà strada perde il 2,88% sull'S&P MIB. Il quartetto dei titoli che trascinano al ribasso Piazza Affari è un quartetto interamente bancario: Intesa San Paolo meno 6,30%, Banco Popolare meno 5,60%, Ubibanca perde tutto quello che ha guadagnato negli ultimi giorni, 4,5 punti di calo, e Unicredit ancora al ribasso, meno 4 punti. Il titolo aveva aperto con un ribasso di 7 punti, è scivolato sotto l'euro nominale, per cui continua a viaggiare sui minimi storici di sempre, e questo è il quadro di questa mattina. E grazie a Deborah Rosciani. Passiamo dall'economia ora alla cronaca. Un episodio in una scuola a Bra in Piemonte, questa volta è stato un insegnante a colpire gli alunni. Sentite cosa è successo. Forse la frustrazione o l'esasperazione per l'atteggiamento di quei ragazzi di quarta che l'anno scorso gli avevano fatto passare l'inferno. C'è probabilmente questo dietro il gesto compiuto ieri da un professore di religione dell'Istituto Commerciale Ernesto Guala di Bra, nel Cuneese. Come raccontano le pagine della stampa, ieri mattina il docente è entrato nel cortile della scuola al volante della sua auto, fa manovra e intanto passano di lì alcuni suoi ex studenti diretti in palestra. È qui che scatta il raptus. In una sorta di bullismo alla rovescia, il professore, anziché frenare, preme sull'acceleratore e li investe. Si vede subito che non sono gravi, ma i compagni urlano, gli altri nelle classi si affacciano alle finestre e in un momento arrivano ambulanze, vigili, carabinieri. I feriti sono due, le loro escoriazioni guariranno in pochi giorni. Quel che resta a scuola è lo sgomento per il gesto dell'uomo, considerato da tutti, colleghi e studenti, una persona mite. Oltre a una convocazione in provveditorato per spiegare l'accaduto, per l'insegnante è scattata la denuncia per lesioni aggravate e omissione di soccorso. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. 30 anni fa, esattamente oggi, moriva, scompariva così un mito del calcio, Nereo Rocco, detto il Paron. Detto che la chiamano Michelin, perché? No, mi chiamo Michelin perché il Milan mi ha fornito questa tuta un po' ingombrante. Ah, non è per via della pancia? Io non tocco un tasto debole, per favore. Era un certo signor Rocco, detto il Paron, che a quei tempi, anni 60, allenava il Milan delle coppe di Rivera di Altafini, e lo faceva alla sua maniera, con quella semplicità, che non era superficialità, dei grandi tecnici e dei grandi uomini, perché prima del calciatore Rocco metteva l'uomo. E non so se sia vero, questa è una cosa mia personale e non la vado a spampanare. Io dico che conosco i miei giocatori 2 ore prima di suo padre. A 30 anni dalla sua morte, la vita di Rocco, ricostruita da Gigi Garanzini in una bella biografia per Mondadori, la vita di Rocco è un piacevole ritorno al passato per rendersi conto di come sia cambiato il calcio e anche il mondo, e non necessariamente in meglio. Il terzino era il terzino, il buongiorno era il buongiorno, e il catenaccio era un modo per dire che anche nel calcio si parte prima dalle fondamenta. La Triestina e il Padova dei Poareti, furono la sua rampa di lancio per il Milan e il Torino, ma le sue radici e i suoi affetti rimasero là. Cioè, ha pagato i suoi massimi desideri. Adesso il suo vero autentico sogno è quello di... Sogno, o Triestino, Padova in Serie A, e poi avrai finito. Lanciò grandi talenti che poi diventarono straordinari allenatori come Bearzot, Maldini e Trapattoni, ma conservò la sua saggezza contadina. Nel 56, prima di una sfida con la Juventus, lui alla guida del Padova, un giornalista gli disse: vinca il migliore. E Rocco, dopo una breve riflessione, rispose: ciò speremo de no. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti e 40 secondi, le notizie di oggi extra large. Via libera alle misure urgenti per contrastare i reati di violenza sessuale. Nel decreto il Consiglio dei Ministri ha approvato anche una norma che consente ai sindaci di avvalersi di sentinelle non armate coordinate dai prefetti. Ne faranno parte ex agenti di polizia e carabinieri. Rafforzate anche le misure giudiziarie, così il guardasigilli Alfano. L'ergastolo diventa la sanzione per chi ha commesso un omicidio in occasione di delitti inerenti alla violenza sessuale. L'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e per violenza sessuale di gruppo. Ciò produce come conseguenza la possibilità di accesso al rito direttissimo e quindi la possibilità di mandare in giudizio i criminali anche nell'ambito delle 48 ore successive. Odioso il collegamento tra crimini e stranieri. Il presidente della Camera Fini usa intanto parole forti alla presentazione del rapporto CNEL sull'integrazione degli immigrati in Italia. I dati dicono che Emilia-Romagna è per le regioni e Trieste è per le province. Sono in testa nella classifica delle aree con maggiore integrazione. Rispetto agli italiani, però, gli stranieri guadagnano circa 7.000 euro in meno all'anno. L'Istat conferma l'andamento della crisi. Il fatturato a dicembre del settore auto è crollato del 29,6%, gli ordinativi del 33,3%. E secondo l'Istat è la contrazione più significativa dagli anni 90. E Bruxelles intanto chiede spiegazioni al piano italiano per l'auto. Domani l'assemblea del PD, con un esito che via via sempre meno scontato. Sarà Franceschini segretario reggente o si andrà alle primarie? Arturo Parisi è extra large. Il tempo per fare primarie congresso c'è, lo sentiremo tra poco. Riparte l'inchiesta sull'omicidio della giornalista Anna Politkovskaya, uccisa a Mosca nel 2006. La corte militare della capitale russa ha deciso di restituire al comitato investigativo il fascicolo d'inchiesta dopo che ieri la giuria del processo ha pronunciato un verdetto di non colpevolezza per tutti gli imputati. Il capo dello Stato israeliano ha deciso di incaricare Benjamin Netanyahu di formare il nuovo governo. L'annuncio formale di Peres dovrebbe arrivare tra pochissimi minuti. Milano ha perso molto tempo, ma non siamo preoccupati. Così il segretario del Bureau International des Expositions, Vicente González Losertales, ai microfoni di Extra Large. È vero, è stato perso tempo. La situazione non è drammatica e non lo diventerà se si corregge la rotta e si comincia subito a lavorare. È grave Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport, ricoverato all'ospedale Santa Rita di Milano dopo aver avuto un'emorragia cerebrale. L'assemblea del PD al bivio. Domani si riunisce per trovare un successore a Walter Veltroni. L'ipotesi principale resta l'elezione di Dario Franceschini, attualmente il numero due, però la possibilità di fare il congresso in autunno per prendere decisioni più definitive. Ma c'è anche chi spinge invece per anticipare a subito il congresso ed andare per esempio a nuove primarie. E tra queste ad esempio c'è l'ulivista e tra i fondatori del PD Arturo Parisi, che sulle dimissioni di Veltroni dice avrebbe dovuto spiegare le ragioni della sua scelta. Paolo Piacenza l'ha intervistato proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo cosa dice. Consentire al partito di scegliere un segretario con la stessa legittimazione del segretario che ha dato le dimissioni e con una forza politica maggiore di quella che lo ha spinto a riconoscere fallito il suo progetto. Quindi voi puntate domani a chiedere che l'Assemblea approvi l'indizione delle primarie? Poiché la legittimazione di Veltroni, come ha ripetuto durante tutti questi mesi, facendo anche riferimento all'esperienza americana, derivava appunto dal coinvolgimento di una larga base di cittadini, su questa stessa larga base di cittadini deve essere fondata la scelta del nuovo segretario. Nel caso questa prospettiva fosse in difficoltà o si andasse al voto per il segretario, lei si è candidato? Sì. Mi sono candidato per consentire il confronto politico sulle diverse risposte che sono state date e che dovrebbero essere date alla domanda perché Veltroni ha lasciato. Io mi attendevo che Veltroni venisse e ci spiegasse il perché lui si fosse dichiarato sconfitto. Questo non è possibile, questa risposta dobbiamo darla noi, metterla a confronto e consentire ai partecipanti all'assemblea e ai cittadini di scegliere quella più convincente. C'è abbastanza tempo per definire degli schieramenti e soprattutto delle linee politiche, trovare dei leader per giocare la partita delle primarie? Quello che non si fa in anni talvolta si fa in minuti, quello che non si fa quando la domanda viene posta non si fa neppure in anni. Il tempo è abbondante se lo si vuole fare. La casa brucia, come è stato detto, guai se quelli che ci abitano non si rendano conto dell'incendio, meritano di perire con essa. Se dovesse indicare tre priorità per il PD di domani per accompagnare la sua candidatura, quali? Beh, innanzitutto un'idea di partito che si fondi direttamente sulla scelta dei cittadini. Secondo, un partito che si metta al servizio della costruzione di quella opposizione di cui ha bisogno il Paese e direi lo stesso governo, pena il rischio per la democrazia. Terzo, un partito che si confronti e rappresenti in modo credibile le ansie crescenti, le rabbie, la rabbia che sta crescendo dentro la crisi tra la nostra gente. Numeri piccoli, numeri grandi, l'assemblea sarà condizionato anche dal fattore numero. Quali sono le sue previsioni realistiche per domani? Beh, se dovessi guardare al passato, le mie previsioni sarebbero pessimistiche. Purtroppo l'assemblea che era stata ridotta ed è annunciata ancora una volta come un'assemblea di ratifica tiene lontani i cittadini che pure si erano presentati ai loro concittadini per farsi delegare all'assemblea. L'ultima assemblea finì con 600 persone su 2880. Mi auguro che la consapevolezza del pericolo e la necessità delle scelte spinga i delegati a partecipare questa volta. L'ultima cosa che le chiedo, oggi Stampa parla di un apprezzamento di Prodi per la sua eventuale candidatura. Prodi lo ha sentito? Prodi segue me e tutta la vicenda col cuore, come ha detto ieri sulla stampa. Personalmente rispetto e difendo la scelta di distinzione che lui ha fatto dopo la caduta del governo. La rispetto io e chiedo che la rispettino tutti, sono sicuro che tutti la rispetteranno. E così Arturo Parisi al microfono di Paolo Piacenza. È arrivato intanto proprio in questo istante il primo commento del capo della polizia Antonio Manganelli dopo l'ok, il via libera del governo, dicevamo, alle ronde per la sicurezza. Non chiamiamo le ronde, dice il capo della polizia, ma sicurezza partecipata, che è l'unica ricetta possibile oggi. E poi aggiunge: cerchiamo di fare squadra, ma nel rispetto ciascuno dei propri ruoli. Domani a Roma manifestazione promossa da Micromega, sì al testamento biologico, no alla tortura di Stato, questo è il titolo. Manifestazione contro il disegno di legge sul testamento biologico che, secondo gli organizzatori, viene portata avanti in Parlamento senza che ci sia un dibattito nel Paese e anche in Parlamento. Previsto un intervento telefonico di Beppino Englaro, secondo il quale questa legge è una vera e propria barbarie perché, ricordiamo, non prevede la possibilità di rifiutare l'alimentazione forzata. Un caso analogo a quello di Eluana, di sicuro altrettanto drammatico, ha avuto modo di viverlo Bruno Tinti, già procuratore aggiunto a Torino, che dal 2008 ha lasciato la magistratura. L'episodio l'ha raccontato Raffaella Calandra. Mi venne chiesto da un ospedale della città in cui lavoravo di dare la mia autorizzazione in un caso molto particolare. C'era una malata molto giovane ma molto malmessa che era costretta a sottoporsi a dialisi, mi pare, tre volte alla settimana e ormai era molto provata, e quindi il medico mi disse non vuole più sottoporsi a dialisi. Ma il problema non è questo, il problema è che questa signora vuole restare qui in ospedale, addormentarsi, andare in coma, credo succede, no? Quando uno è malato di reni e non fa la dialisi, e vuole essere lasciata morire qui. E allora ero un giovane sostituto e dissi: ma guardi, è inutile che le do il mio parere, queste sono questioni che devono essere decise dalla dirigenza della procura, mi chiami oggi pomeriggio. Lui mi aveva telefonato perché ero di turno, e così facemmo una riunione, io, i miei due capi, litigammo tutto il pomeriggio. Allora c'era stata una sentenza recente della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso di una certa Baby Jane, la chiamavano. C'era un passo in cui diceva che era diritto di ogni essere umano morire con grazia e dignità, e quindi io sostenevo che questa era la soluzione. I miei due capi non erano d'accordo. Alla fine, quando il medico telefonò, dissero che non c'era niente da fare, che o se ne andava a casa o se stava in ospedale, quando fosse caduta in coma, avrebbero dovuto riattaccarla alla macchina. Così lei si sarebbe risvegliata e tutto sarebbe ricominciato da capo. Io mi arrabbiai molto, dissi: voi state dicendo a questa donna che si deve suicidare per i fatti suoi. Poi tre o quattro mesi dopo quel medico mi telefonò dicendomi che volevo dire che quella signora si è buttata dal terzo piano. Il resto dell'intervista a Bruno Tinti, autore tra l'altro, ricordiamo, di Dopo le toghe rotte, di un altro saggio sulla giustizia, La questione immorale, l'intervista andrà in onda domenica alle 19.30 nella rubrica Storiacce. Cambiamo davvero registro. Preparate le valigie se siete studenti dell'Università Milano Bicocca, perché tra i legami stretti grazie a Expo 2015 c'è anche un filo che porta alle Maldive. Di che si tratta? Ce lo spiega Federico Pedrocchi, che si trova proprio alla presentazione di questa iniziativa. Anche lui in viaggio, forse. Buongiorno. Per il momento solo a Milano. Allora, e questo è un giorno molto felice per noi, ha esordito così il giovanissimo presidente delle Maldive, Mohamed Nasheed, che devo dire una persona dotata di una simpatia immediata fortissima, ha esordito così in questo discorso alla conferenza stampa che è terminata poco fa all'Università Bicocca. Felicità condivisa anche da docenti e ricercatori del campus milanese, al quale allora ufficialmente da oggi la Repubblica delle Maldive consegna uno dei suoi atolli. E su questa isoletta, che si chiama Magodou e che ha un diametro di poco meno di un chilometro, Milano Bicocca costruirà un centro di ricerca nel campo della biologia marina, della biodiversità in genere e delle ricerche geologiche. La Repubblica delle Maldive è costituita da 1200 atolli e di questi solo 190 sono abitati. Ma questo paese sull'acqua è oggi minacciato da un pericolo. Il suo territorio ha un confine che, attenzione, non sta dove l'acqua lambisce le coste, perché è più a largo e sott'acqua, dove c'è appunto la barriera corallina che circonda tutte le isole e le protegge da un oceano che, insomma, se non ci fosse questa barriera la Repubblica delle Maldive sarebbe di fatto sommersa. Allora, qual è il problema? Il corallo è una specie a rischio in tutto il mondo, cambiamenti climatici, inquinamenti e anche altri fattori non ancora ben compresi stanno aggredendo e riducendo le barriere. Allora il governo delle Maldive chiede che le ricerche sul corallo siano fatte nelle condizioni migliori, cioè lì da loro, sul loro territorio. E questo accordo naturalmente consentirà di portare avanti questo tipo di ricerche. Insisto, non resta che iscriversi alla Bicocca, pagarsi il viaggio e poi andare a lavorare o a studiare alle Maldive. Grazie Federico Pedrocchi per questa notizia. 13:36 minuti, le notizie di oggi. È arrivato il via libera alle misure urgenti per contrastare i reati di violenza sessuale. Il Consiglio dei Ministri ha infatti ha anche approvato una norma che consente ai sindaci di avvalersi di sentinelle non armate in coordinamento con i prefetti. Ne faranno parte ex agenti di polizia e carabinieri. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, risponde così alle obiezioni avanzate dal Quirinale. Non c'è stato nessun veto o nessun invito a non inserire norme che, ripeto e lo sottolineo, sono già state approvate da un ramo del Parlamento, compreso i volontari per la sicurezza. Odioso il collegamento tra crimine e stranieri. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha usato intanto parole forti alla presentazione del rapporto CNEL sull'integrazione degli immigrati in Italia. Integrazione, ha detto il presidente della Camera, si può raggiungere solo con la garanzia della sicurezza e della legalità. L'Istat certifica la frenata dell'economia, il fatturato del settore auto è crollato a dicembre del 29,6%, gli ordinativi sono andati a picco del 33,3% e secondo l'Istat è la contrazione più significativa dagli anni 90. Intanto Bruxelles chiede spiegazioni sul piano italiano per l'auto. Milano ha perso tempo, ma non siamo preoccupati, così il segretario del Bureau Internazionale des Exposition al microfono di Extra Large commenta i ritardi per l'Expo italiana. Lo sentiamo tra poco. Domani l'assemblea del Partito Democratico, con un esito che è via via sempre meno scontato. Sarà Franceschini il segretario reggente oppure si andrà alle primarie? Arturo Parisi a Extra Large dice che il tempo per fare le primarie e il congresso c'è. Il tempo è abbondante se lo si vuole fare. La casa brucia, come è stato detto, guai se quelli che ci abitano non si rendano conto dell'incendio, meritano di perire con essa. Riparte l'inchiesta sull'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, uccisa a Mosca nel 2006. La Corte Militare della Capitale russa ha deciso di restituire al comitato investigativo il fascicolo d'inchiesta dopo che ieri la giuria aveva pronunciato un verdetto di non colpevolezza per tutti gli imputati. Non è stato pagato nessun riscatto, non si è compiuto alcun blitz armato per la liberazione delle due suore missionarie italiane liberate ieri in Somalia. Stanno bene, oggi sono ancora ospiti in Kenya dell'ambasciatore italiano a Nairobi. Il capo dello Stato israeliano ha deciso di incaricare Netanyahu di formare il nuovo governo. L'annuncio formale è arrivato poco fa. Dopo l'assegnazione a Milano dell'Expo 2015 resta risolto il nodo della governance. Sarà probabilmente l'ex ministro di Forza Italia, Lucio Stanca, ad assumere la guida dopo che Paolo Glisenti ha fatto un passo indietro. Intanto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha detto di non volere rinunciare a Diana Bracco nel consiglio di amministrazione come presidente dell'Expo. Continuano insomma gli indugi e litigi politici sulle poltrone fondamentali. A Parigi però non si sono ancora preoccupati per il ritardo. Nicola Accardo ha intervistato il segretario generale del Bureau International des Expositions, Vicente González Los Certales, che un anno fa ha scelto Milano per il 2015. Sentiamo cosa dice ai nostri microfoni. Monsieur Los Certales, che cosa ne pensate a Parigi? Milano sta perdendo tempo? È vero, è stato perso tempo. La situazione non è drammatica e non lo diventerà se si corregge la rotta e si comincia subito a lavorare. Non c'è molto tempo prima della consegna del progetto definitivo, che è prevista il 1 maggio 2010, cioè tra un anno e 4 mesi. Che effetto le fanno i litigi per la composizione della società di gestione? Mi sembra normale. L'Expo è un grande progetto nazionale. È logico che tutte le forze politiche si attivino e che vogliano essere presenti. A parte nei regimi totalitari, in tutti gli altri paesi c'è bisogno di mettersi d'accordo, di dare a ciascuno un ruolo. Perché se si guarda l'Expo come a un compito privato di qualcuno, il progetto non funzionerà mai. Che cosa ne pensa dell'ipotesi del commissariamento da Roma? Quando lo Stato è il finanziatore principale di un progetto è logico che eserciti un forte controllo. Non vuol dire però che l'amministrazione pubblica si occupi interamente del progetto, non è possibile, bisogna creare una società. Lo Stato ne è il principale azionista, ma non deve occuparsi direttamente di condurre in porto l'Expo. Che cosa le ha detto il sindaco Moratti? L'ha sentita recentemente? Sì, qualche settimana fa, è passato già un po' di tempo. Mi ha chiamato per assicurarmi che i finanziamenti erano stati garantiti. Una volta che lo Stato garantisce i finanziamenti, o almeno la maggior parte di essi, non abbiamo motivo di essere preoccupati, se non per il tempo che passa. E bisogna certamente aspettare che tutti questi problemi si risolvano. E questa dunque l'intervista di Nicola Accardo a Parigi. Non sono preoccupati per l'Expo milanese. Ora parliamo dell'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, avvenuto nel 2006. Ieri l'assoluzione di tutti gli imputati. Oggi però un giudice ha deciso di riaprire l'inchiesta. Nuove indagini per individuare gli assassini di Anna Politkovskaya, freddata sotto casa a colpi di pistola, nell'ottobre del 2006. Le ha ordinate il giudice che presiede il Tribunale Militare di Mosca, dove ieri la giuria ha assolto i 4 presunti responsabili, tra cui un ex dirigente della polizia moscovita e un ex colonnello dei servizi segreti. Il comitato investigativo della procura dunque ricomincia da capo il suo lavoro, alla ricerca di colpevoli che in molti pensano non salteranno mai fuori. Un processo controverso, quello che si è da poco concluso, giudicato da molti addirittura una farsa, con una giuria costretta a decidere sui soli esecutori materiali senza alcuna traccia del mandante. Il Cremlino, il primo sospettato della morte di questa giornalista scomoda che si ostinava a raccontare la reale situazione in Cecenia, si difende. È stata uccisa da nemici di Putin per gettare fango e sospetti. Una tesi che appare bizzarra, ma lo è ancor di più quella con cui si è tentato di spiegare l'omicidio a gennaio per strada, sempre a colpi d'arma da fuoco, dell'avvocato Stanislav Markelov, difensore dei diritti dei ceceni, e della giovane giornalista Anastasia Baburova, l'erede della Politkovskaya. Erano amanti, ha riportato un quotidiano. È stato un fidanzato geloso. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. In Israele si va verso un governo Netanyahu. Andiamo a Gerusalemme. Il presidente dello Stato di Israele, Shimon Peres, ha annunciato, dopo aver consultato i leader politici, che affiderà l'incarico per la formazione del prossimo governo a Beniamino Netanyahu, capo del partito Likud, Tzipi Livni, capolista del partito Kadima, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ha rifiutato di entrare nella coalizione che Netanyahu vuole formare, poiché secondo lei mancherà una visione politica ed ella non potrà realizzare le aspirazioni del suo partito. Netanyahu ha avuto l'assenso di 65 deputati sui 120 della Knesset, ma avrebbe voluto associare anche Tzipi Livni e Ehud Barak, laburista, attuale ministro della difesa, che rimarranno invece all'opposizione. Non sarà facile per Netanyahu governare con la sola destra e coi religiosi, offrendo il fianco alle pressioni del presidente Obama per avviarsi verso la soluzione dei due stati, uno israeliano e l'altro palestinese. La presenza di Avigdor Lieberman, con 15 seggi ed idee estremiste, non faciliterà la missione di Netanyahu, che ha 28 giorni per formare il nuovo governo con un'eventuale proroga di 2 settimane. Sergio Minerbi, GR24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Sono le 13:44 minuti, molti forse saranno pronti per partire per un weekend da qualche parte, allora i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Per una serata di grande spolvero vi consiglio un ristorante a Quistello, in provincia di Mantova, si chiama L'Ambasciata. Il patron Romano Tamani è un personaggio molto noto che riesce ad essere un anfitrione straordinario in sala, quindi è un locale da passare una serata di grande cibo, ma sicuramente anche di grande allegria. Cosa mangiare? Bene, la lista è veramente sterminata nel senso che si può passare da cibi come il foie gras fatto in maniera straordinaria, ma anche dei ravioli con il foie gras in brodo di capone, ma anche a cose molto semplici, anche se poi semplici tanto non sono, come i tortelli di zucca ovviamente alla mantovana. Si può passare dalla faraona al pollo alla cacciatora, e i dolci non ne parliamo, possono arrivare decine e decine di dolci di assaggio sul tavolo. Quindi sicuramente un menù che è per tutte le bocche, nel senso che si possono mangiare anche pesci, si possono mangiare crostacei, insomma c'è una libertà assoluta di scelta, ma soprattutto l'ambiente, l'atmosfera fanno di questo locale sicuramente un locale di grandissimo richiamo dove passare una grandissima serata. Lo ripeto, L'Ambasciata a Quistello, in provincia di Mantova. 13:47 minuti, le notizie di oggi. Via libera alle misure urgenti per contrastare i reati di violenza sessuale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche una norma che consente ai sindaci di avvalersi di sentinelle non armate. Saranno coordinate dai prefetti, ne faranno parte ex agenti di polizia e carabinieri. Odioso, dice intanto il presidente della Camera Fini, il collegamento tra crimine e stranieri. Il fatturato del settore auto è crollato a dicembre del 29,6% rispetto a un anno prima. Gli ordinativi sono andati a picco del 33,3%. Secondo l'Istat è la contrazione più significativa dagli anni 90 e oggi per le borse è venerdì nero. Il leader del Likud, Benjamin Netanyahu, ha accettato l'incarico conferitogli dal capo dello Stato israeliano Shimon Peres di formare il nuovo governo. Oltre 12 milioni e mezzo davanti alla TV per la terza serata del Festival di Sanremo, che è cresciuto ancora rispetto al secondo appuntamento. Questa sera altri duetti. E non ci resta che sbarcare a Sanremo dalla nostra Marta Cagnola. Buongiorno Marta. Buongiorno, ma tradizionalmente cominciamo dando i numeri e quindi i numeri li do subito. Oltre 12 milioni e mezzo per la terza serata del Festival di Sanremo, nella seconda parte 6 milioni 312 mila, Canale 5, scherzi a parte, 4 milioni di telespettatori. La media di tutta la serata, quindi prima parte e seconda parte, è stata di 9 milioni 238 mila persone, con il 47,17% di share. Per chiarire la portata del successo, 14 punti di share in più rispetto alla media ponderata della terza serata del Festival di Baudo, che chissà, io mi chiedo sempre come sta prendendo questi ascolti di Bonolis. Maluccio sicuramente. Non so quanto sarà sportivo. Senti Marta, Bonolis davvero sembra avercela fatta, ma lo spettacolo o la musica secondo te sono il segreto di questo successo? Beh, ieri la musica, sì. Penso. Il segreto è proprio quello, è riuscito a fare spettacolo con la musica, mentre molti anni, molte edizioni hanno visto che si faceva spettacolo tra una canzone e l'altra, invece lui è riuscito a tenere un ritmo molto alto. Poi devo dire che ieri sera ho incontrato Bonolis al ristorante e lui ha detto: io avevo dei cantanti a disposizione ieri sera così forti che era proprio un peccato. Facciamo qualche nome per quel 53% di italiani che non l'hanno visto? C'erano quei nomi che di solito a Sanremo non ci vanno, non ci vengono più. C'era Ornella Vanoni, Gino Paoli, Massimo Ranieri, c'era Bert Bacharach, c'era Lelio Luzzatto, Pino Daniele, non mi vengono nemmeno in mente tutti. La musica italiana, tanti. Zucchero. Sì, sì, sì, sì, sì. Basta non pensare alle canzoni in gara, ecco, basta pensare agli ospiti. Senti, e quindi... gli artisti che ne pensano? Allora, gli artisti che ne pensano? Gli artisti sono subissati da mille domande. Oggi Luca Laurenti, che è stato veramente eletto un po' la rivelazione, perché è veramente simpatico, ha detto sembra di stare al commissariato. Allora io ho fatto un gioco, ho messo insieme le domande più domandate, consentitemi questa espressione, del 59esimo festival ad attori, cantanti, ospiti. Sentiamo cosa hanno detto. Giuseppe Povia di La Verità, te l'aspettavi? È stata un'operazione furba. Sono coerente, non è che sono qui a far la furbata. Ho perso un sacco di fan per un titolo. Qualcuno ha buttato via i miei dischi, tanti non hanno rinnovato l'iscrizione al fan club, se sono furbo io. Gemelli diversi, ma Sanremo serve ancora a vendere dischi? Purtroppo sempre di più, nel senso la musica in televisione ha sempre meno spazio. È sparito anche il Festival Bar, non è rimasto quasi più niente. Per andare forte, farti sentire bene, devi andare a bussare dove di solito non hanno orecchie per sentire. Iva Zanicchi, perché cantare del sesso maturo? Sono una nonna, anche mamma, ma sono e non sono una santa, perché sono una donna, hai capito? Il succo era quello. Giorgio Pasotti, come si trova un attore all'Ariston? Sono messi bene anche quelli della musica. A livello di confusione, Bonolis, giusto così per riaccendere la scintilla della polemica, se li merita, non so quanti siano questi soldi, ma se li meritate, insomma, se li sta meritando. Patti Pravo, come ci si prepara a Sanremo? Mangio solamente una goccia di carne al vapore, 3 ore prima. Dopo poi mi ci vogliono 5 ore per far calare l'adrenalina, quindi io non mangio mai. Massimiliano Varrese, com'è il carrozzone di Sanremo? Mi sembra che impazziscano tutti quanti. È bello perché fa parte alla fine della nostra cultura, del nostro DNA. Anch'io da piccolo non vedevo l'ora che arrivasse Sanremo. Giovanni Allevi, emozionato? Sono terrorizzato. Non riesco quasi a parlare per l'emozione, però vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato. Senti Marta, Patti Pravo ha detto che mangia solo un goccio di carne, invece visto che ieri hai visto Bonolis al ristorante, cosa mangia per tenersi così in forma visto che è veramente brillantissimo in queste serate? Io vi confesso che non gli ho guardato nel piatto, però posso dire che è veramente stato gentile con tutti, è riuscito a fare battute a tutti gli ospiti del ristorante anche se erano passate le 3 del mattino, veramente io molto stupita, anche se io sono arrabbiata con lui perché ogni volta che mi vede mi dice buongiorno signora, buonasera signora, mi fa sentire straordinariamente vecchia. No signora no, signora no. Questa da Bonolis non ce l'aspettavamo. Questa sera cosa ci aspetta? Abbiamo pochi secondi. Questa sera ci sono tutti i duetti degli artisti, cioè quelli che un tempo chiamavamo i campioni, con degli ospiti a loro scelta. Insomma, ci saranno ancora dei duetti tutti da scoprire. Grazie a Marta Cagnola. Grazie, presto a voi. E ti risentiremo naturalmente nel corso della giornata in altri servizi e approfondimenti da Sanremo. Adesso però un aggiornamento che è doveroso, riguarda Candido Cannavò. Ha trascorso una notte tranquilla, l'ex direttore della Gazzetta dello Sport, ricoverato, sapete, in terapia intensiva all'Istituto Clinico Santa Rita di Milano, dopo che ieri ha accusato un malore. Le condizioni cliniche e neurologiche del giornalista rimangono gravemente compromesse, si legge però nel bollettino sanitario. E con questo è tutto per Extra Large. In studio Alessio Maurizio e Anna Migliorati, al coordinamento Maria Piera Ceci. Fabio Cantadori in regia, l'appuntamento è per lunedì, vi ricordo il nostro indirizzo extralarge@radio24.it. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.